Radio Virus presenta Rosa di Sera, da tavolo transfemminista queer Macao, Carlizia, la vocina che ti vizia, legge favole per diventare di tutti i colori che volete. Babbo Natale SRL di Adela Turin, con qualche piccolo aggiustamento. Quel farabutto di Babbo Natale io l'ho conosciuto anni fa, quando si chiamava ancora Nicola Nicolini. Fu a quei tempi che Nicola arrivò al paese con la sua giostra arrugginita che girava lentamente, cigolando, e faceva una povera musichetta stridula. Era una brutta giostra, con le pitture scrostate, i cavalli zoppi, i cigni grigiastri e ammaccati. Il giro era brevissimo e costava ben 5 soldi, e l'anello che valeva un giro gratis era appeso troppo in alto per poter essere sganciato dai bambini. A quell'epoca, quello spaccone di Nicola era vestito di nero, col panciotto e la bombetta e un brillante falso al dito, e fumava con un lungo bocchino di falsa ambra. Mia cugina Leonia, la più bella ragazza del paese, se ne innamorò pazzamente. Sua mamma e la mia, e anche la nonna, piangevano e protestavano. «Ma con quell'impostore, vantone, smargiasso, vorresti sposarti, stella mia?» «Sì, mamma, con Nicola», rispondeva Leonia. «Ma con quell'imbroglione, malandrino, scroccone, vorresti andare a vivere, gioia nostra?» «Sì, nonna, con Nicola», rispondeva Leonia. Le nozze di Leonia con Nicola furono una specie di funerale, con donne che piangevano in tutti gli angoli della casa e a tutte le finestre del villaggio. Leonia era raggiante nel suo bel vestito e con la coroncina di fiori di mollica di pane fatta da lei. Naturalmente, quel prepotente di Nicola si rivelò un marito impossibile, arrogante, fannullone, sempre al caffè, a bere e a giocare a biliardo. Leonia, delusa, sospirava e si dava da fare. Fra le sue mani, la vecchia giostra diventò in qualche mese un oggetto smagliante. Con la pasta di carta rifece gambe e becchi, trasformò modestissime zebrette in splendidi cavalli alati, calamitosi carrettini in cesti intrecciati di rose, biciclette sgangherate in delfini luccicanti, sciocchi pesciolini in sirene dai lunghi capelli splendenti. La colonna che mascherava il meccanismo, laccata di bei colori e sfavillante di vetrini e specchietti, il tetto infronzolito, l'anello a portata di mano dei più piccoli, una musica allegra e una campanella che annunciava l'inizio dei lunghi giri. Ecco com'era la giostra dopo 6 mesi di lavoro. Nicola, quello sfaticato, dichiarò: «Certo, voi donne siete speciali per questo tipo di lavoretti». Leonia sospirò e, finita la giostra, si mise a fare dei giocattoli. A quell'epoca i giocattoli ciascuno se li faceva da sé. Una nonna cuciva ogni tanto una bambola di pezza, un nonno inchiodava un carretto. Leonia, con la sua cartapesta, si mise a fare delle bambole bellissime, dei burattini, delle casette piene di piccoli mobili, delle carrozze coi cavalli. Man mano che li finiva, li regalava ai bambini del quartiere, che passavano da lei tutti i pomeriggi senza scuola, ad aiutarla e a guardarla fare. Nicola si irritava. «Dovresti smetterla con quei giocattoli. I bambini sono sempre qua da te invece di venire alla mia giostra. Ci manderai in rovina. Voi donne siete tutte delle incoscienti». Leonia sospirava e continuava a darsi da fare. Finché Nicola, quel farabutto, a forza di pensare, ebbe una trovata. «Va bene, se proprio ci tieni a fare dei giocattoli, falli. Ma falli sul serio e io li venderò. Voi donne non avete per niente il senso degli affari». Tanto fece, tanto parlò, che riuscì a convincere la nonna, la mamma di Leonia e la mia, e le zie Aida, Celina e Geronima a lavorare anche loro ai giocattoli. La casa diventò una fabbrica. Per accelerare la produzione, Nicola le convinse tutte che ciascuna doveva fare un pezzo diverso. Leonia faceva le teste delle bambole e i cavalli delle carrozze, la nonna i corpi, le braccia e le gambe, la zia Aida i vestiti e le parrucche. Bisognava fare in fretta. Nicola guardava l'orologio e dava consigli e cacciava i bambini perché facevano perdere tempo. Aveva deciso che si dovevano fare 4 bambole, una casa e una carrozza al giorno. «Voi donne», diceva, «non avete il senso dell'organizzazione». Nei primi tempi i giocattoli si vendevano bene. Nicola faceva un giro, li piazzava e andava al caffè a riposarsi dalle sue fatiche. Ma si stancò subito e prese dei venditori che si tenevano la metà dei soldi. Leonia e la nonna e le zie sospiravano e si davano da fare. Ma i giocattoli, fatti frettolosamente da 5 mani diverse, non erano più quelli di prima e questo rattristava tutte loro. Le bambole erano tutte uguali. Le carrozze avevano un solo cavallo e nessuna tendina alle finestre, le porte delle case non si aprivano e le tegole erano soltanto dipinte. Dopo qualche tempo, Nicola cominciò a lamentarsi. Gli affari andavano male, bisognava fare qualcosa. «Voi donne», brontolava, «siete buone solo a fare le cose semplici. Quando si tratta di avere un'idea, di trovare una soluzione, niente». E così, a forza di pensare, Nicola ebbe un'altra trovata. «Mi travestirò in modo che nessuno mi riconosca, salirò sui tetti e butterò i giocattoli nei camini. I bambini si metteranno a giocare e quando la mattina dopo passerò a riprendere i giocattoli, i genitori non potranno fare a meno di tenerseli e pagarmeli». Leonia, la nonna e le zie non erano d'accordo e protestarono, ma Nicola tagliò corto. «Via, via, si farà così. Voi donne non capite niente della promozione commerciale. Avanti, fatemi un bel vestito». E così Nicola, con la barba e la pancia finte e un bel vestito di velluto rosso con le frange bianche fatto dalla zia Aida, cominciò il suo giro delle case ricche del paese. La mattina presto, insieme a un compare che gli portava e gli teneva la scala, saliva sui tetti e scaraventava giù i giocattoli per i camini. Poi, distrutto dallo sforzo, tornava a casa, mangiava come 4 e se ne andava a far la siesta. La sera, travestito da buon vecchio, col pancione e la barba e il suo vestito rosso e bianco, passava a prendersi i soldi. I genitori, sorpresi e furiosi, finivano per pagare delle somme sproporzionate per giocattoli già mezzo spaccati. Tutti quelli che avevano bambini cominciarono a difendersi, tappando con pezzi di legno i comignoli quando non servivano. Così, nella buona stagione, gli affari diventarono difficili, ma appena veniva il freddo, si aprivano i camini per poter accendere il fuoco e Nicola ricominciava il suo giro per i tetti. C'era chi lasciava il fuoco sempre acceso e, certe mattine, Nicola cercava a lungo un comignolo che non fumasse. Erano in bolletta. I giocattoli si accumulavano in cucina e in camera da pranzo, invenduti. E Nicola passava il suo tempo al bar, lamentandosi. Leonia si stufò di sospirare e di darsi da fare. E un bel giorno se ne andò di casa e si rimise a lavorare aiutata dai bambini del quartiere. Tutti insieme, nel prato appena fuori dal villaggio, costruirono una immensa bambola. Bambini e bambine potevano arrampicarsi e scivolare, potevano entrare e uscire. Dentro la testa c'era un piccolo teatro di marionette e nella pancia tavolini per disegnare e lettini per riposarsi. La chiamarono Nikki, che significa vittoria. La gente del villaggio, per gentilezza, si mise d'accordo per comprare dei giocattoli da Nicola una volta l'anno, a Natale, fingendo di non riconoscerlo, e i bambini lo soprannominarono Babbo Natale. Nicola diventò vecchio. La pancia e la barba sono ormai vere e non sale più sui tetti, ma suona alle porte, col suo sorriso finto e bonaccione e la sua borsa di giocattoli di plastica, comprati in città. Al caffè, dove continua a passare la maggior parte del giorno, si vanta di aver avuto la migliore idea pubblicitaria di tutti i secoli. Che sia vero? Comunque, non cascateci. Io, che quel Nicola Nicolini l'ho conosciuto bene, vi posso dire che è un vero farabutto. Avete ascoltato Rosa di Sera, favole per diventare di tutti i colori che volete. Per contattarci scrivete a rosadisera@autoproduzioni.net.